Tiago Giammanetta. Hola, chi è? A Manetta, sì, una televisione, sì, a Manetta. E se mi hanno sabotato l'antenna della TV pure? Fai denuncia, sabotatori. Non lo dia a Paola, no. Adesso, oggi non mi sento bene, ma appena c'ho modo vado, mi compro due staffe nuove, facciamo venire quella cosa lì e tanto in 3 ore ce la facciamo a piazzarla. Ecco, sì, a Puglia, io gliel'ho già contattato, mi hanno risposto, ti ho mandato il messaggio anche. Capito? Però ti conviene comunque farli magari di avvicinarsi a fare un sopralluogo, capito? Glielo fai vedere, raggio, guarda, lo togli, è quello a metterla sul tetto e loro ti dicono, capito, tutto quanto, Natali. Onde evitare che poi ci siano balle magari per la via, per il vicolo, Bodubur e Badavà. No, il furgone un deli miei c'entra dentro il vicolo, c'entra un deli. Basta togliermi, mollo un dado e tu l'antenna la sfili, perché è dentro un altro palo. Sfili antenna e palo. Pronto da mettermi le zappe, una volta che hai messo le zappe è una stronzata. Infatti, capito, poi se servono attrezzature già ce le abbiamo, capito? Pronti, siamo sempre pronti. Quando sei pronto tu, loro il coso me l'hanno detto, il costo, così che vedi tu poi, caparoggero. Eia, no problem, devo comprare le staffe, trapani, una giù lui, una batteria e una corrente. Sì, bisogna vedere come è messo quel muro di su, se si può usare il chimico, si usa il chimico, capito? Già è come è fatto, se è tuffo anche quello siamo a posto, allora col chimico, il tempo poi di asciugare il chimico, e poi bisogna passare, studiare dove passare il cavo in modo che lui non te lo tronchi, anche se ti tronca un cavo da buon casino, mi Natali, devi tornare a scala aerea. Già lo so, già te lo dico io, quando ci vediamo, grazie, lo senti? Guarda, questo qui mi sta portando a un punto brutto. Eia, sì, è l'unica cosa, è il cavo. Il cavo, passarlo da qualche parte è sicuro, oppure è sempre lì, ma magari dentro un tubo. Sarebbe la cosa ideale, dentro un tubo, naturalmente, in plastica. Non lo so, vedi tu, roba leggera. Già ce l'ho il tubo leggero per farci passare il cavo dentro. No, ti preoccupare Luca, già, perché bisogna preparare tutto il materiale, tutto in modo che quando vengono abbiamo tutto pronto. E io perché di tubo di plastica da impianti elettrici ne ho un bel, però bisogna vedere quanto è grosso quel tubo, capito? Di quello ne ho un bel, però non lo so, mi sembra da 20, boh. Non lo so, di chi si annaccia? E il capo, là già, tutto il mondo d'accordo. No problem. Mi hanno sabotato l'antenna TV, adesso bisogna andare a farmela restituire da quello del palazzo di fianco. L'antenna se me la restituisce, se no me la compare giù nulla e si la piglia in culo e me la pongo sotto lo coso di Rovaracchino. Si sarà rotta, se ce l'avevi sul tetto o no? Nel palazzo di fianco al mio, l'antenna della mia TV, però me l'hanno sabotata. Era una settimana che, no, che andava e turrava, non la potevi vedere la televisione. Chi l'ha sabotata, Natale? Quelli di quel palazzo? Sicuramente. Ma che cosa è successo? Se non funziona l'antenna, evidentemente, perché il televisore non c'ha niente. Se lo va a comprarmi il televisore nuovo, però abbiamo provato in casa di un amico mio e il televisore mio non va nulla. E infatti funziona in direa, ma perché ho fatto un attrecolo con un amico e la sto vedendo ugualmente la televisione. E non disturbo, anche con la potenza manetta e con l'antenna bassa. Ma anche quell'antenna te l'ho fatto vedere io, quella a forma di T. antenna, quella lì è perfetta, guarda, sono alimentate, sono antenne amplificate, quindi hanno un bel canale, qui si abbatte la buona visione, la televisione, capito, anche se lavorano meglio all'esterno, però funzionano bene anche dentro. Sì, ma io sono al primo piano, mi non piglierà un cazzo questa antenna, ci si intende di dubbio. Mi ha provato. Sono mostruose, capito, come antenne, ne prende anche briccome. Certo, se potevo usare un'antenna del genere e vedere i canali lo stesso, non me ne fregava niente dell'antenna esterna. Ma al limite mi la compareggio un'antenna UHF, la metto sopra al coso, mi do 30 metri di cavo, 1 metri di... e via. Sotto l'antenna al baracchino ed è fatta. E va giù una e l'altra. Forse non devi c'è anche da voi giro di più, si la biglia in culo. Tanto ho visto che Mottola non è aperta. Ma poi che non è altro, chiesto di aprire la bottola, deve togliere le tegole, non è così alza, insomma, capisci, non deve togliere contro il soffitto. Vai, che non te ne faccio, chiesto. E vabbè, non me ne va la fa. Già ne va a vedere di bassona, Luca. Questo se ne deve scappare da qua. Certo, ma cade che dopo ti domanda, visto che era salaria di piazzare la televisione, l'antenna della televisione. Mi lo domanderà sicuramente, ma io gli dico, fa una cosa, mi dai 500 euro e te la faccio piazzare. Ma io, vai, girami di coglioni, gli dico, anzi, se non ti cagli muti di cui tu burri no, che mattessi, gli dico, fai da bravo. E se noi dici, sì, dammi la metà della costa della scala aerea e conveni pure a te. E allora? Ma se no, non fa, perché c'è da comprare il palo, l'antenna, tutto, perché da me non gli faccio mettere nulla, pongo solo la mia e chissà di trovare anche una nel barone, mio, basta. E allora, poi ti fa il dispetto, apre la bocca, te mangi, sale sul tetto e ti fa il dispetto all'antenna del baracchino. E faccia il dispetto, il circo mi ha fucilato davvero, allora è la volta che gliela tiro veramente la fucilata. Se ne deve andare da qua, ti posso dire che ci rubo tuo fuggito, è tutto quello che ho passato qua. Cazzo, il maledetto ti sta facendo spendere soldi, cazzo, per niente, fanno abbrighi, sa bocca, miserabile. Ma da palazzo a fianco non ti fanno salire. Oh, iaci, ma vieni a tassare. Guarda, quando vado a prendermi l'antenna, chissà se me ne danno pure. Infatti, sono convincenti, se non mi la dargli nell'antenna mia, meglio me ne compro una, UHF, tanto ci vuole un'antenna solo. Prendo l'antenna al cavo e via. Senza che anche via tirare la ronda. A chi io devo avere tutto pronto quando venne la scala aerea? Eh sì, meno tempo si perde e meno soldi si spendono. Perché tanto a loro non li cambia niente, anzi, loro più tempo ci stanno e più guadagnano, certo. Cappa. E beh, infatti. Cazzo, già senza bagno davo i 60 euro. Non ha compreso. E più, anzi, era poco. Cazzo, figurati dopo se ci metti di più del tempo. Più poco un agio di guardia, roba è meglio. Piazzo l'antenna della televisione, chissà di guardare a chi, non così che indipendente. E buca. E non si la attrivi mia, chi si sa attrivi cazzo ne dice con le mani. Ma infatti secondo me ti conviene, io avrei fatto così comunque, quando mi sarei deciso li avrei chiamati, gli avrei detto guarda quando siete in zona se puoi passare così vedi cosa c'è da fare, ti spiego cosa c'è da fare e vedi se è tutto fattibile senza problemi per quando lo dovremo fare. Secondo me ti conviene chiamarli prima e dirgli così vengono, guardano, ti dicono sì è fattibile, ci mettiamo qui, facciamo così e ti dicono cosa è tutto quello che ti devono dire, capito? Entra lo piccolo, devi entrare, entra lo piccolo col mezzo. Sei già risolto lo... Entra un deli qua, con la scala aerea, non sono già entrati. Quindi lo so. La scala aerea... siccome era qua sotto ieri, capito, stavano piazzando dei condizionatori, era proprio qua sotto, stavano piazzando i condizionatori al terzo piano. È così che ho preso il numero, capite, gliel'ho detto, e gli ho mandato il messaggio su WhatsApp. Beh, chiacchierù. Mica c'è uno sotto, Luca. Ma vi siete soprammodulati. Ho detto buonasera. Chi è? E chi sono? Gesù Bambino. Ah, ciao. Ciao a Parigi. Non so se ci sia altra gente perché sono appena entrato. Io pensavo che stavi ancora riprendendo. Oh, se non ci sei entrato in questi giorni, ho detto adesso ancora dall'imbriaghiera che ci aveva quel giorno. Sì, proprio imbriaghiera, due bicchieri di birra bevuto. No, è perché c'ho di meglio da fare, dai, questi giorni, quindi non sono entrato per quello. Io ieri non c'ero, ero fuori, quindi ero in girella. Ma che giornata strana oggi, bubù. Era un po' ventilata, però dai, si stava bene, non c'era quel caldo afoso. E stamattina sembrava che dovesse piovere. E infatti avevo intenzione di andare al mare stamattina, mi sono alzato presto, poi ho visto che era un po' così, allora ho detto, ma mi fico d'ora. E mi sono coricato e mi sono alzato alle 9. Il mare non lo so, com'era. Se dovevi andare a pescare. No, non a pescare, al mare, fammi il bagno. E a pescare in questi giorni ci dovrei andare, dai. Mi compro l'esca e vado. Le canne sono già tutte ingrassate, tutte a posto. Prendo e me la metto, poi se va male pazienza. Sono gli orari da rispettare. E io vado dopo le 8, più orario di così, che dalle 8 di sera alle 8 di mattina io posso pescare quanto vuoi. Sempre rispettando, se non c'è gente facendoci il bagno, se c'è gente facendoci il bagno aspetto. Non so con cui si. No, già le conosco le vici. Se no vai in zona riposo e non sbagli di scogliera lì, balai, quelle zone lì e puoi andare anche lì senza problemi. No, non mi piace più sugli scumi, ma quando è caduto quella di scumi non ci vado più. No, scivoli e ti tronchi le ossa, io già lo sai che sono operato tutte e due le gambe, se mi si facciano le punte ci sono casi. Invece io preferisco, mi sembra che ci sia più soddisfazione da riscogli che non capisco, vabbè, come dire, ma in coci e tutto ogni volta, casino. Quello è, almeno che peschi col galleggiante, allora va bene. Col galleggiante puoi andare, avanti la tanca. Eia, c'è un calamento io, ragazzi, col galleggiante è favoloso. E puoi regolare l'altezza dove lo vuoi mettere. Ed è, guarda, una bomba. E con quello peschi, col fatturatore è tutto. Ehi, non c'era quanti anni l'ho fatta io con la pesca, ero un ragazzino, vado la faccia con il pasturatore a fondo, ci mette i vermi dentro e poi i vermi nell'acqua. E che una dica lo fa io, chissà la che prendi così bene. E infatti, alla Giubiliardi, vedi Maduri, solo mi sono fuggiti, anche come ci sono arrivati a Rocca mi si è tagliata la lenza, perché il coppo non ci arrivava, capito? Era troppo in alto lì. Ma Franco, ma c'è quella paracaduta? Chi su un ruccio va via, però non va via. Ma minimo era un chilo e due, se non devo un chilo e mezzo pure. Guarda, erano un bel grosso. E dico che andarci in marchetta o un gommoncino e così non li perdo. Infatti. La picca anche lì, poi dagli scogli no. Troppo alto era lo strapiombo. E non mi sono cuvidato. Comunque lì si pesca, di brutto. Natali, ma ti viene più nervoso a perderli che a non prenderli. Se li perdi, io mi ricordo la botta dell'orata, sarà stata 4 kg, 3 kg e mezzo, 4 kg, quella che ho preso, l'ho tirata quasi vicino alla battigia, passano questi qua, questi turisti raccogliendo conchiglie, cazzo, e fanno, oh com'è bella, pa, mi ha spaccato tutto. Quella si guarda, ma la frutta che mi ha giubilato la voce, cazzo, quando la giubbetti chi si sa che cazzo era lì pauroso, c'era anche mia moglie. Io per un po' sentito solo QRM, non lo so Luca. Venga, parlo io. Ho sentito solo moglie, tutto il resto era QRM, non si esci tu. Ho detto c'era anche mia moglie. Ah, con voi? Ho capito. Ma Natali, fa vedere più Già lo sai, è logico che ti viene un nervoso quando vedi delle bici simili che ti scappano. Non ho capito. Io non riesco a capirti, cioè, ci forma questo tipo di QRM, quando parli e ti copri. Ma c'ho l'antenna bassa per il momento, non posso far nulla, sono a manetta. Mi no, che adesso dici bene, è a momento, magari quando non schiaccio bene, forse probabilmente è quello, non stai schiacciando bene. Luca Flipper, avanti. Infatti probabilmente piuttosto non è meglio passare con la bombarda a semiaffondante. Io vado nel continente, pescavo anche con le bombarde e con quelle già non incroci. Ci metti galleggiante, ci metti la bombarda e lanci un bel lontano e puoi usare le canne a pesca normali, invece che le bolognesi o comunque serve per non per usare fili di un certo diametro anche, capito? E lanci un bel lontano. Anche per quello che gli ho persi, ma erano due bestioni. Infatti dall'incazzo me ne sono andato, magari ne avrei preso di più pure. Già, la bombarda è un galleggiante, si assomiglia molto a un galleggiante, però è trasparente, la boccia di sotto è trasparente, poi c'è il gambo e ci sono affondanti e semi galleggianti, diciamo, perché rimane a mezz'acqua. Io la usavo per fare la pesca alle troppe, capito? Perché ti consentiva di lanciare molto lontano e poi sotto ci metti l'amo, solamente l'amo con l'esca, capito? È molto più comoda del galleggiante, anche se, ripeto, una cosa che non vedi perché lanci lontanissimo, così che, però almeno ti rimane a mezz'acqua e non fai altro poi che recuperare piano piano, se vuoi, se no la lasci andare con la corrente, capito? Ma è molto comoda la bombarda. Non l'ho mai usata, non so come. A poco poi c'era un signore che usava un galleggiante e metteva tipo un palamito, tanti ami con le sardine e pescava certi pesci allucinanti. Allegato a un cordone, il galleggiante, quando mangiava tirava e prendeva barracuda, pesci serra, tutta quella roba. Infatti le bombarde le usano anche adesso al feeding, per lanciare molto lontano e far sì che l'esca rimanga a mezz'acqua, oppure galleggiante, dipende dalla tipologia di esca, capito? Ma ti consente di lanciare molto molto lontano. Sì, ieri ho visto quel cane marrone che hai detto tu, quello che un padrone va via, lo gannava in mano e dura libero, io ero con Tyson. Allora a Tyson gli ha giocato la museruola, e non si sa mai che non musicheggia, si gira almeno, se no con la museruola si può manco i fin dito. E poi ci ha dato il dito. Natalino. Buia, c'era un cuticino in verticale. Oh, ma tu così lo senti? Basta, c'è. No, proprio tipo QRM si sente, sì. Poi c'avevo il microfono lontano pure. Hai capito, Natali, che ieri ho visto quello che ha il cane marrone che voleva musicare a cuffia. Me la giocava da Tyson subito la museruola. E va tu beh. Ci si era attaccato dei burrugani di mitraglia, gatto, quando si occupava della rotonda. Si mi raccomando, che stavi ammazzato, roba. Ma ti pare puoi lasciare libero, gatto? Io ho sempre l'uso corrente. E da poi si girava a Romeo che è un microbo. Oh, da poi non lo so cosa ne lasci tu di Susa, ma che Romeo è tirioso, ma ricussi ma. E infatti, allora io penso che non ha giocato la museruola, ma la museruola non tocca, non si sa mai che ci gira, perché c'aveva la corda in mano e il cane era libero, capito? E così la mitraglia era. Il cane era libero e si è bloccato, no? e il mio lo stesso si è bloccato, però il mio voleva andare a giocare, cazzo non ti vidi. Natali, controlla che c'è qualcosa che non va. Non sta uscendo, boh, è venuto da poco fa. A momenti esce forte, a momenti è proprio scorretta. A me mi sei caso gli incendi. Adesso sei uscito bene. Aumento anche la radio, dai. Forse è perché stavo parlando a voce. Sentivate. Nada, lei nada. Sì, ho capito. Hola. Hola. Hola. A vedi che sale. Sì. A momenti esci bene, a momenti c'è sempre il QRM e tu sei in mezzo al QRM, ma ti copre, capito? Boh, non so che dirti, mi segna picchi positivi addirittura. Come se fossi in FM, ce la presenti? È come se tu fossi in FM e noi in AM, e però ci sente anche più male, ci sente questo QRM forte. E boh, che ne so. E adesso è andato bene. Ma non è che c'è qualcosa che non va nel cavo, no, l'antenna? Nel cavo del microfono? No, nel cavo dell'antenna, l'FL, controlla a vedere che non ci ha stretto bene. Aspetta. Allora. Torniamo a vederci, per fortuna non c'è più il distanziamento, abbiamo superato anni terribili, torniamo al vicino di casa. Belle partite, ecco. Oh, 1,5. In compagnia. Soltanto un grande abbraccio. C'ho 1,5 di stazionari, 1,5. Con l'antenna non è da di stazionare, che è strano. C'ho l'antenna in terra, non la voglio un frindì. C'è un pezzettino dal tetto, è logico che c'ho stato. No, no, no, lascia lì. No, non sta riuscendo bene, dai. Quel coglione me l'aveva sabotata e per poco mi cade in testa qualcuno. Non l'ho dovuto accendere. Luca! Basso quasi tre in radio, aspetta che lo registro. È appoggiata anche al muro l'antenna, oltre che essere bassa. L'antenna vuol libera. Certo, un po' di stazionari e ce le ho, anche perché sto facendo a massima potenza. Hola. Perché mi pare che tu me lo dico, no? Sì. Con una pernacchia poco fa sei uscito già. Cosa? Cosa? Dai. Che sei uscito con una pernacchia poco fa. Perché c'avevo l'altro apparecchio acceso, mi ero dimenticato di spegnere, l'ho girato apparecchio, capito, cambiato. E cappa. Io vorrei sapere come sto uscendo, boh. Adesso bene. Al muro ed è in basso, capito, è troppo bassa. E c'è un pezzettino di stilo dal tetto. È un miracolo che posso modulare così. E che mi soprattutto perché è arrivato in basso. Adesso sta arrivando bene, chiaro. E magari boh, chissà, o forse non c'è qualche falso contatto nel microfono. Non penso, Natali. Ma a te è toccato il PL adesso, l'hai avvitato. Il PL era stretto. Ho controllato anche la stazionale perché c'è lo strumento fisso. A chi no che non veda avvitarsi. Ma adesso sta facendo bene. Sì, adesso sì. Non ho toccato il PL io, Vai giù, lei. Oh signor! Natali! Uia! Adesso sto facendo male, adesso ti registro, aspetta che ti registra Luca. Boh, che vuoi che ti dica? Che ci avevi? Hola! Hola! Hola! Eppure i picchi sono positivi. Adesso sì. Allora se c'è il Luca, che andò a registrare. Cazzo, non così si sente. Una volta bene, una volta male, come ti dà la televisione? Anche la televisione già mi hanno sabotato. video adesso, Natalino. Guardatelo tutto però. Se mi ruba il DVD sempre, a chi no, mi ruba il computer, è un casotto. Dice a DVD, ma lo guardo. È l'ultimo però, guardati, perché il primo sta dicendo bene. Cosa intenzione di fare, Luca? Già, di cosa? No, Natalino, che intenzione di fare? Mettere la scala aerea? Sì, gli ho mandato il contatto, tutto quanto, il costo, eccetera, eccetera. Però gli ho detto, falli venire così fanno un sopralluogo, almeno. Infatti, devono controllare prima il tetto, come da mettere. Adesso magari Guido si buono in mezzo, che non vuol piace. Può darsi, buco. Carità, tanto gli amaci. Chi è avanti? Chi è? Qualcuno spostato, sta facendo dispetti a Natalino, ma è compreso. La vecchiaia, a chi mi fai dispetti? E anche io stavo, mi sembrava fuori frequente. Bello. Ogni tanto viene uno. Eppure è strano, io ci vedere. Allora. Una solidarietà con i colleghi e forse anche nel consiglio di Andrea. Questo è. Come sto uscendo adesso? Sono a metà. Sto uscendo bene. Ma c'è qualcuno a 080, si mette a disturbare, me lo segna qua, capito? Ah, ecco. Magari arrivo basso io, è per quello che può disturbare. La cambia stante la nostra capiciulia, non avremo d'ora a ragionare. Mi vino, Natali, da voi e si muore. E beh, infatti. Adesso questo qui mi fa spendere una barca di soldi per la scala aerea. Devo pigliarmi tutti i bezzi, un casino qua. E quanto ci vuole, Natale? Un bel di denaro, ci vuole un bel di soldi. Se ti sto dicendo, mi hanno sabotato pure l'antenna TV. Era una settimana che non potevo guardare la televisione perché andava e veniva il segnale. Cioè, l'antenna mia è nuova e anche del tipo nuovo proprio per il digitale terrestre. Eppure me l'hanno sabotata. Adesso bisogna che, se non me la restituiscono l'antenna mia, quelli del palazzo a fianco, taglio Rugavu e San Mattian, me la compro nuova, tanto ce ne vuole una sola, prendo quella UHF, modello nuovo, e me la piazzo sotto quella del baracchino. E così non aggiù, li rompi i miei cazzoli in nessun modo. Ma sali tu sopra quando vi la scalare? E allora, io e Luca saliamo. Io mi compro le tappe come queste adesso, che c'ho qua, e le piazziamo su. Poi è un gioco a sfilare questa l'antenna, tanto è dentro un altro palo. Svito un dado e ne esce l'antenna. Pare tutto da sé. Oh, Gianni. Eia. Guardati il telefono mio, adesso lo mando a Natalino anche lo stesso video, guardati il segnale del disturbo, va prima e dopo, capito? Sì, prima e dopo. L'hai visto? Sì, ho visto. Qualcuno che lo sta facendo apposta. È per quello che copre Natalino, capito? Ma deve essere anche vicino, perché se lo copre è anche vicino. E ci vuole molto a coprire a Memmi. Verri bombasso sicuramente. No, se non c'è quel rumore lì, arrivi bene, Natalina, si risente. Ehi, mazzo di segnale, dicono. Copro io, lo copro. Che c'ho l'antenna. 1, 2, 3, lo copro. Ma Natalino sì. Da voi che... Te l'ho spostato, me. Quindi non è che arrivo... Ci ne compro. Lo so che arrivo mazzo, perché... Mi sono messo a 0,70. Più... c'è gente che non sento per niente. Ma sono a 0,70, a 0,70 lo copro. Infatti. Via. Che ciucchi e la cariuga già ridura a bogo. Canale, così si verifica se qualcuno che lo sta facendo a posto. Allora poi ha portato la casa ogni giorno alle 9 di sera alle decine di bufoni tutto pieno, ti sicuri la faccia tutti in basso e va alle 9 in punto escono. Il posto che fai dalla rotonda alla torretta lì, dal bar della torretta lì, dove ci sono quei pini, pieno! Io me lo posso immaginare. Tutte le ieri che si cucinava la faccia dai beni, noi, le risate, io mi giocavo dalla salva sa che lo sapevo. Una volta con Liliana ci hanno perseguitato dalla pinetta, ci siamo chiusi in macchina, ma è un film di terrore, si sono ripiste tutti i vetri della macchina di bubù. Ecco, a quell'ora allora non bisogna andarci da quelle parti. No, escono alle 9 in punto, alle 9 loro. Escono, membro lì. E cappa. Adesso c'era qualcuno sotto la teglia. Oh, a parte chi vuole entrare. Stava chiamando a me, deve essere. Ho sentito il mio nome. A parte chi chiama Natalia. Ma negativo, chi ce ne fotte? C'è la gente, fa meglio vendersi gli apparecchi per usarli così, capito? È meglio che se li venda, tanto, cosa li usa a fare? A rompere e scattare la gente. E infatti, e quando me la metterò sul tetto, almeno qualche VX lo posso fare, me ne vado in barra laterale e gli altri si ammazzano, se non mi vogliono sentire. E appunto, io l'altro giorno stavo parlando con la Francia, Parigi pure, ho copiato Parigi e mi hanno copiato anche loro. Sì, anche io ho parlato con la Francia, però ce l'avevo un po' più altina l'antenna, noi da i civili. Non sento più manco la propagazione adesso. Parlavo con Manuele Casa, che lo sentivo quando smontava, mi chiamava sempre, adesso non lo sento più per esempio. Averla così, ma non te l'aveva messa a posto Franco? No, ne avevamo varata, era pericolosa così, se era in orizzontale ne stava accendendomi. Oltre che me la rompevo, se ne scendeva in testa qualcuno lo gribava. Era pericolosa, era già, me l'ho dovuta accendere per forza. Ma colori non ti aveva detto che lo faceva lui il coso del tetto, che ti faceva mettere tutto? Però c'è una idea. Cosa già? Ho detto, quello non ti aveva detto che ti faceva passare per mettere l'antenna sul tetto. E quello dice tante cose, però non fa mai nulla. Se gli ho comprato tutto il materiale per aggiustare quel portone, non ha più fatto, deve essere un materiale già trattato, ma con tassi la Gasareddu, però Cari non ha fatto nulla. E con tutto quel materiale ve l'ho comprato io, però la si attacca a un disighio, va. Ma cari dai. E che doveva fare? Doveva aggiustare le scale. E allora, aggiustare le scale, il portone. Gli ho comprato il materiale io per poterlo fare. Un cavolo ha fatto. Ha aggiustato appena appena i muri del portone, però scale non ne ha fatto. Era meglio che lo facessi prima. E io, fino in nera. E io non posso fare nulla, c'avevo un mal di schiena oggi, pauroso. Per poter vedere la televisione tu non sai tutto quello che ho fatto. Adesso a me i dolori mi stanno passando col caldo, grazie a Dio, mi tocco, però i dolori mi sono passati con il caldo, va. beato te, a me non mi sono passato di bannuda, e l'anca sempre così, chissà che mi doveva mai dare i documenti se ne è andata in Africa, in vacanza, e io sono sempre così. Buh! Ma tu, se hai bisogno di qualcuno, se non ti rubai la cosa, non è venuta di va. Tanto mano non te ne dà nessuno. Diciamo che farà se fa per tre la pelle. Potendolo fare, sì, già. Cazzo, ma io non lo posso fare. Tu non sai il mal di schiena che avevo oggi solo per fare le quattro cazzate, pare che mi ha già tirato montagne da fondo. Ma dimmi tu, cazzo, va. Sto perdendo la pazienza. E questo ha detto la pazienza, è questo che è spagnolo. Buttate tutto e ditemi dove lo buttate. Ciao Marco Condor, butta la tua roba che ne di più e almeno ti rimane qualcosa. Buonasera a tutti, sono entrato a Gamma Tesa, sono tornato adesso e sto per riuscire di nuovo. Chi siete? Quanti siete? Perché siete? No, vai, vai, esci, finiscitene, cosa dai, la benedizione, te ne vai, vai via, vai. Io con i cucumani non ci parlo. Oh, la benedizione io. Oh, sai cosa mi è successo ieri? Ma te l'immagini questo Marcolino Condor? Vai, vai, escitene, escitene. Un attimo il telefono. E cosa ti è successo? Il mio è vicino, dice, non vedo la TV, spegni tutto. Oh, cavolo, avevo questo baracchino qua, avevo passato l'antenna su un altro apparato. Ma ero convinto che l'antenna poi di averla rimessa qua, ho da modulare con questo e mi stavo ascoltando con l'altro, prova, prova, 1, 2, 3 e 1, è un altro passaggio, 1, 2, 3, prova, insomma dei 4 secondi, forse anche 5 massimo, senza antenna, non si è bruciato il finale. E ho avuto, perché non è usato talvolta, dai, magari premevi e mollavi. No, ma tu immaginati, ora 1, 2, 3 prova e poi un altro passaggio uguale. Succede, succede anche a me, però io di solito me ne rendo conto perché ho sentito QRM, e allora me ne rendo conto, ma ci sono volte che il QRM lo senti lo stesso, anche se non c'è antenna e ti frega. Vedi come sono io metto sempre lo squelce, non mi accorgevo che non c'era antenna, non stavo nemmeno guardando lo smitter. Che cacchio, a meno che non abbiano protezioni magari intrinseche questi nuovi apparati, per cui anche se dubito, però vedi, pochi secondi non succede niente, no, perché giravano leggende metropolitane, e certi dicevano all'epoca, o erano più i finali più sensibili, non più delicati, dicevano, basta una frazione di secondo senza antenna e subito ti parte il finale, no, e mi è capitato anche col 3009, di premere la portante un secondo più il bip, un secondo e mezzo in tutto e non è mai successo nulla. È meglio così Marco. Vabbè, interessante che abbia risolto. Ma è QRM questo? No, non è QRM, è qualcuno che si sta mettendo nelle frequenze adiacenti e mette la portata. Hai capito? Ma lo passo? Già sgarata la storia, dai, mette la portata nelle frequenze adiacenti prima e dopo, per esempio mette 27070 e si sente la voce col QRM, anche a Natalino lo stava facendo. Sì, già si può mettere con me che scombazzo, ma vabbè, già ci rifaremo. Ma non sarà un polacco di propagazione, che loro hanno lo zero finale? No, quando parla con Natalino la mette, ma capito? Allora, torna di Bisemmo. Lasciali fare. Già è vero che gli spendo i soldi. Anche un bel linearone mi compro, mi sto già perdendo. Mi lo sto io, Ho fatto più da Dio, più da Dio. Ma lo vedi che stava facendo? Stavano sulla frequenza di Asci. Gianni, mica lo so io. Io non sto dicendo niente, Tori. Sto dicendo che sei tu. Sto dicendo solo che stanno andando alle frequenze di Accinti 070, 0, fanno prima e dopo, capito? Ciao Torino, ciao Marco. No, sono in seguito ascolto io. E Massa la porta anche qua. Siccome qualcuno sta valutando poco fa, capito? E quindi, per il sicuro, tu dici che non sa mai. No, Tony, non abbiamo fatto nomi, in generale abbiamo detto poi plurale, torre le portanti, che sicuramente è più di una, e non si finisce mai qua. E quindi Nathalie, come sei rimasto tu? La situazione, punto della situazione. Che mi hanno sabotato anche la settimana che non potevo vedere. Oh, non passa, Io prima pensavo che fosse un disturbo di Natalino, che fosse per l'antenna. No, la stava... Tu mi segna, faccio lo strumento in oggi e mi segna ciò che c'è in di me, cazzo, ma vabbè lasciamo perdere, là. Quando vuol dire che spenderò tutti quei soldi per mettermi l'antenna, vuol dire che parlano col muro dopo, se disturbo me ne sbatto, mi denuncino, che cazzo me ne affutti, meglio un linearone, cazzo che... Se ne va la narriva. Ho detto di suba la tua lì. Come? Ho detto di suba. E chi? La portante. Certo che mi disturba, si va giù l'antenna in terra. Non l'ho scesa l'antenna, Tony, perché stava per cadere giù. Era troppo pericolosa. Una giugana ci abitava qualcuno. E per quello sto uscendo basso. Allora mi tocca chiamarmi la scala aerea e spendere i soldi per poterla piazzare. Comunque chiedi quanto costa la scala aerea. Io ho un patentino, capito? E a me quello di Ottava mi fa anche di meno. Tu chiedi se ti conviene poi. Se l'ho vista l'antenna tua, ma è andata lì. È un me, massa. E se sono la butta fuori, sei buco. L'ho fatta così per quello, perché era troppo pericolosa. Non potevo rischiare, oltre che di rompersi l'antenna se cadeva, facevo male a qualcuno. Così mi rubavi nei bagapannuvo, no. Ho preferito scenderne, tanto quello molto là non ha intenzione di aprirne. E allora lo faccio da fuori. Ma è di poco che ti supera la portante la tariffa, tu non ma sono dei figli, annullo te ma annullo anche la portante io automaticamente, è di un pelo che ti supera. Perché più di quel tanto non posso uscire, sono una manetta, mi. Se lo uso con due batti non mi sentite magari. Avanti, già. Ma io l'ho detto che sicuramente vi è anche vicino a lui. Sicuramente è vicino, usa qualche apparato in macchina, che ne so. Però io all'inizio l'ho detto, sembra che sia un FM, in qualche banda laterale, cosa, perché dà proprio il segnale come se fosse in un'altra frequenza. Io passo le fighe e sparisco la portante. Per un attalino con un pelo lo copre. Avanti Marcolino. Condor, va, apri il suo caffè. Sì, ha detto che doveva uscire e torna. Forse adesso esce e quindi non entra più. Magari deve fare commissioni, capito? Insomma, un po' di giorni che non entra la frequenza. Allora, sento. È sempre un mattese casino per lasciare te che. Cosa vuoi fare? Li lasciamo giocare per il momento, dai. No, perché quando non c'è si sente bene, non ti sento bene Natale. Lo so, però se me la mette giustamente mi annulla, mi fa uscire male, va. Poi si è spostato di frequenza pure, e per non farsi scoprire, mi... però da fastidio ugualmente, si è spostato solo di 5 kHz. Natalie, hai detto severamente, e tu te la fai mettere. Sì, ormai ci sono abituato che... Tu pensa, Natalie, che da 9.30 che arrivavi sul DB, arrivi 9.05. E so con un 15 watt. Se ricciardo con 2 watt magari arrivavo anche più basso. Aspetta, lo metto a 2 watt così, come lo usavo sempre, così vedi a quanto arrivo. Ma lo sai che non ha cambiato lui? Qua sei 9.10, Natalie. Adesso sono con 2 watt, come arrivo, guardate. Adesso sono con 2 watt, con la potenza che lo usavo sempre, con 2 watt uscivo. andata a 9 con picchi positivi. 9, 5, 4. Ecco, mi sono rientrato, 8, che questo, i segnali però sotto da 9 a meno è cieco, quindi dovrebbe essere 9, e prima eri 9,25, è la stessa cosa di Gianni, cioè quel range lì, praticamente si è calato anche lui di tanto. No, sai cos'è, ero in banda polacca per vedere se mi compariva la portante reale a 0,70, però come ho cambiato banda non ne ha messo, e quindi inutile. E lasciate, fregatene. Chissà chi è, magari è qualcuno che si sta giocando ed è di qua. Ma deve essere in brutte condizioni anche questo altimetro portante, perché è pio pio. Comunque è andata lì, se tu arrivavi a 8 qui era 9 la portante, non passavi e ti crepava. È inseccante la situazione. C'è un tiro di sputo e caspita, proprio è crollato il segnale in modo drammatico e io lo stesso sono a mini termini. Solita storia, no? 3 watt e mezzo, il filtro mi ruba 1 watt, sono 2 e mezzo più tutti i metri di cavo, più il giunto, quindi ci sarà in antenna reali 1 watt e mezzo, male andando, bene andando 2 watt in antenna. Figurati. Però io logicamente esco basso perché ce l'ho attaccata al muro l'antenna. E c'è un pezzettino di filo solo fuori, ho dovuto abbassare per forza. Adesso mi devo chiamare la scala aerea se la voglio saltare sul tetto, altrimenti no, come faccio? Solo in quel modo la posso piazzare. Stavamo valutando con una persona se era necessario un contributo purché si risolva la situazione. Poi se quello fa casino lo mettiamo come contrappeso all'antenna, capito? Lo impicchiamo alla punta del palo. C'è anche la carrucola per impiccarlo. E lui lo fa a me, vai Torino. Comunque informati in atto lì, del fatto del camioncino col cestello. Perché loro dicono, con l'autista è un tot, senza autista è un altro tot. Io ho ancora il patentino valido tutto quest'anno, mi scade l'altro anno. E io purtroppo non ce l'ho il patentino, c'ho solo la B adesso, me l'ho fatta togliere la B, capitolo... me l'ho fatta declassificare la patente perché non me ne facevo